Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. 19ª puntata. Non ricordo da quanto fossero partiti la nonna, Tridib e May, quando un mattino scoprii che c'erano dei disordini a Calcutta. Ricordo che mia madre quella mattina ebbe un grande affare. Forse era una di quelle giornate in cui mio padre doveva uscire presto per il lavoro. Comunque, non ebbe tempo di ascoltare alla radio il notiziario del mattino e mi mandò giù all'angolo con la cartella e la bottiglia dell'acqua ad aspettare lo scuolabus, come sempre. Anni dopo mi interrogavo ancora sullo strano rapporto di mia madre con la sua radiolina a transistor. Le aveva assegnato un insolito posto d'onore nella sua stanza, sulla stessa mensola su cui teneva le fotografie incorniciate dei genitori defunti. Cercava di non perdere mai il notiziario del mattino. Quei bollettini erano la liturgia del rituale della nostra prima colazione. Al college ero solito dire orgogliosamente ai miei amici: «Mia madre è realmente interessata alla politica, da anni non perde il notiziario del mattino». Naturalmente volevo solo impressionarli. Già allora sapevo perfettamente che lei non aveva nessun interesse per il tipo di politica di cui si parla alla radio. Solo che allora non riconoscevo quella qualità come una virtù e, imbottito com'ero di astratte promesse di progresso, come chiunque altro alla mia età, non riuscivo ad ammettere che per lei ascoltare le notizie era una semplice regola di sopravvivenza. Tuttavia, quella mattina perse il notiziario. Così io uscii ad aspettare l'autobus, come di consueto. Aspettai a lungo. Ricordo che fui geloso quando gli altri due ragazzi che di solito prendevano l'autobus con me non arrivarono. Tuttavia non mi meravigliai, perché quel giorno a Madras sarebbe incominciato il primo incontro internazionale del torneo di cricket del 1964 contro l'Inghilterra. Pensai che fossero riusciti a convincere i genitori a lasciarli restare a casa ad ascoltare la radiocronaca. Conoscendo mia madre, non mi prese neppure il disturbo di domandarglielo. Aspettavo camminando su e giù sul marciapiede. Ero preoccupato per la partita. I giornali del mattino dicevano che Farouk Engineer si era infortunato e non avrebbe giocato. Al suo posto era stato messo un tale di nome Budi Kunderan. Erano notizie inquietanti. Engineer era il nostro mito, l'eroe della nostra squadra. Non avevamo mai sentito il nome di Kunderan. Sapevo che senza Engineer non avremmo avuto la minima opportunità. Cominciavo a seccarmi di aspettare, visto che ero così ansioso di parlare della partita con i miei amici sull'autobus. Eccolo finalmente, il nostro grande scuolabus che avanzava maestoso lungo il viale nella mia direzione. Gli corsi incontro impaziente, sventolando la bottiglia dell'acqua. Man mano che mi avvicinavo, notai qualcosa di strano e mi fermai. Era l'autobus giusto. Ne ero sicuro, vedevo il nome della scuola dipinto a chiare lettere su un fianco, ma avrei detto che qualcosa non andava. Finalmente capii. Di solito era pieno quando arrivava lì e c'erano teste e braccia a ogni finestrino. Oggi il bus era stranamente vuoto, nessuna testa affacciata. Il bus si fermò e ci montai sopra. C'era soltanto una dozzina di altri ragazzi ed erano seduti su una panca in fondo, rannicchiati insieme benché l'autobus fosse vuoto. Sebbene nessuno di loro fosse mio amico, sembravano sollevati di vedermi. Normalmente ci saremmo limitati a uno scambio di saluti, ma quel giorno appena mi videro si spostarono e mi fecero spazio tra loro. Mi accorsi subito che i loro occhi, tutte le 12 paia, avevano deviato in direzione delle mie spalle. «Cosa c'è?» dissi con apprensione. «Che cosa state fissando?» Mi voltai e vidi che ad attirare la loro attenzione era la bottiglia dell'acqua. Alla mia destra c'era un ragazzo grassottello di nome Tublu, che talvolta giocava a cricket con noi nel parco. «Che succede?» gli chiesi. «Che cosa guardi? Non hai mai visto una bottiglia d'acqua prima d'ora?» Spalancò stupidamente la bocca e disse: «Così anche tu ne hai una?» Prima che potessi rispondere, indicò uno dei ragazzi più giovani e mi sussurrò all'orecchio: «Non ha portato acqua oggi. Sua madre gli ha dato una bottiglia di soda.» Fissò il ragazzo raggomitolato e gli ordinò di dirmi perché non avesse portato l'acqua. Ricordo ancora il suono lacrimoso, cantilenante della voce del ragazzo, quando ci disse che sua madre non gli aveva lasciato bere acqua quella mattina perché aveva saputo che qualcuno aveva versato del veleno nella cisterna di Tala, che l'intera riserva di Calcutta era avvelenata. Ricordo come l'ascoltammo e gli facemmo ripetere quello che aveva detto, e da qualche parte, riesumato dalle macerie, insieme a quel ricordo ce n'è un altro, un dettaglio assai più piccolo. Ricordo che non gli facemmo nessuna domanda, non chi fosse quel qualcuno, né perché qualcuno avesse avvelenato la propria acqua. Non era necessario fare alcuna domanda. Conoscevamo le risposte fin dal momento in cui l'aveva detto. Era una realtà che esisteva per il solo fatto di essere stata detta. Così, quando la si sentiva dire, non aveva importanza crederci o meno, importava soltanto che fosse stata realmente detta. Adesso ogni cosa tornava al suo posto. Le strade vuote, l'assenza degli altri ragazzi, tutto corrispondeva. Non c'era bisogno di altre domande. Allora Tublu disse ad alta voce: «Lo sapremo a Gole Park.» «Perché?» chiese qualcuno. «Perché è là che Montu prende l'autobus», rispose. «Lui lo saprà, è musulmano.» Si girò verso di me e sorrise. «Montu è un tuo amico, non è vero?» disse. Ricordo che mi si seccò la gola mentre cercavo di trovare una risposta. «Non da quando ci siamo trasferiti», mentii. «Non vedo Montu da mesi.» Quando raggiungemmo Gole Park, guardavo fuori dal finestrino fissando il punto proprio accanto alla fontanella dove di solito Montu aspettava l'autobus. Non c'era. Lanciando una rapida occhiata giù per il vicolo, scorsi uno spiraglio tra le tendine e capii che ci stava guardando. Ero molto contento che non fosse venuto. Subito dopo, uno a uno, svitammo i tappi delle bottiglie e buttammo via l'acqua. Quella mattina c'era lezione di matematica, la prima ora. La nostra insegnante era un'attempata signora anglo-indiana, Mrs. Anderson, una donna alta e magra che portava le gonne e aveva i capelli corti e brizzolati. C'era soltanto un gruppetto di ragazzi nella classe e Mrs. Anderson non si curò del rituale dell'appello, il che provocò scompiglio tra di noi perché era un'ulteriore infrazione alla norma, mentre fino a quel momento tutti ci eravamo silenziosamente concentrati per mantenere le cose il più normali possibile. Ma Mrs. Anderson batté sulla cattedra con una matita, aggrottando le sopracciglia sopra gli occhiali. Di fronte al rimprovero aprimmo i libri e prendemmo posto. Subito la sua voce tranquillizzante e familiare prese a spiegarci come potevamo usare la lettera X per rappresentare qualunque numero ci piacesse. Dopo poco la giornata parve quasi normale, la lezione non diversa dalle altre. Il mio banco era vicino alla finestra. A metà lezione mi sembrò di sentire un rumore in lontananza. Era debole e confuso, simile al gracchiare di una stazione radio a onde corte. Non ero del tutto sicuro di aver sentito qualcosa quando notai che anche Tublu, che sedeva accanto a me, aveva alzato gli occhi. Articolai sulle labbra la domanda: «Che cos'è?» Ma lui non ne sapeva di più. fece una smorfia e alzò le spalle. Furtivamente, tenendo d'occhio Mrs. Anderson, sollevai la testa e guardai fuori dalla finestra. Adesso il rumore era più forte. Sembravano voci, molte voci, ma non era il frastuono disciplinato di una manifestazione. Eravamo abituati ai cortei che passavano nei pressi della nostra scuola. Ce n'erano ogni giorno e non vi prestavamo attenzione, ma questo era diverso. Un grido, poi un altro e poi un altro ancora si succedevano a singhiozzo, poi di colpo c'era silenzio e proprio quando sembravano smorzarsi, ecco una voce seguita da una dozzina d'altre e poi di nuovo un momento di silenzio. C'era una nota singolarmente spaventosa nel suono di quelle voci, non rozza e potente come il frastuono di una folla infuriata, piuttosto un timbro straziante, tormentato, un crescendo di disarmonia in cui nel momento in cui lo percepite riconoscete l'autentico suono del caos a causa della paura sfuggente, informe, che alimenta dentro di voi. Adesso lo udivano anche gli altri. Ogni testa nella classe si era voltata a guardare fuori dalle finestre. Con uno sforzo di volontà Mrs. Anderson cercò di chiudere fuori il rumore. Incominciò a leggere a voce più alta, battendo sulla cattedra per attirare l'attenzione, riempiendo la stanza con la sua voce. Ma anche quelle altre voci erano diventate più forti. Le sentivamo sollevarsi oltre il muro di cinta della scuola. Mrs. Anderson non poté ignorarle più a lungo. Posò il libro e percorse a lunghi passi la stanza chiudendo le finestre. Le superfici dei vetri erano state dipinte di verde per tenere lontano il sole dell'estate. Ora sedevamo intrappolati in un'oscurità verdeggiante, mentre la voce di Mrs. Anderson risuonava ed echeggiava nella classe spiegando i principi dell'algebra. Mrs. Anderson fu visibilmente sollevata dal suono della campanella. Ci ordinò severamente di concentrarci sui libri di storia, di non fare assolutamente rumore e poi si affrettò fuori dalla classe. Appena fu uscita spalancammo le finestre. Non potevamo vedere lontano perché la scuola era circondata da muri molto alti. La folla era sparita. Tutto sembrava calmo. Poi sentimmo la sirena di un'autopompa che passò un minuto dopo a tutta velocità. Qualcuno indicò qualcosa in lontananza e guardando in su vedemmo levarsi nel cielo una colonna di fumo grigio. Non si capiva dove fosse l'incendio. «Mi chiedo chi stia battendo», disse qualcuno. Nessuno rispose. Ci eravamo dimenticati della partita. Poi la voce di Mrs. Anderson ci richiamò e ci precipitammo verso i banchi. Ci guardò furiosa, con le mani sui fianchi, ma si vedeva che non era arrabbiata come avrebbe dovuto essere. Battendo sulla cattedra, disse che per quel giorno le lezioni erano sospese. Saremmo stati rimandati a casa in autobus. «Perché?» chiese qualcuno. Lo guardò di traverso e disse: «Non vuoi una vacanza?» Lasciammo l'aula in silenzio e ci mettemmo in fila nel campo da gioco. Tutta la scuola era allineata all'esterno. I pesanti cancelli d'acciaio si aprirono. Subito in testa alla fila si diffuse un mormorio d'eccitazione. I ragazzi davanti allungavano il collo guardandosi intorno sorpresi. Quando raggiungemmo i cancelli, vedemmo che un contingente di poliziotti armati aveva circondato la scuola. «Che cosa stanno facendo qui?» bisbigliai a Tublu. «Sei un idiota, non vedi che sono qui per proteggerci?» Salimmo sugli autobus in un silenzio attonito. Questa volta, automaticamente, ciascuno di noi scelse un posto accanto al finestrino. Non appena l'autobus si fu allontanato dalla scuola, fummo certi che qualcosa era cambiato nelle ultime 2 ore. Passavamo in quella strada due volte al giorno, ma adesso aveva qualcosa di insolito. I marciapiedi, di solito gremiti di venditori e di passanti, erano misteriosamente deserti, a eccezione delle squadre di poliziotti di pattuglia. Tutti i negozi erano chiusi, perfino i banchetti di pan sugli angoli. Nessuno di noi aveva mai visto quei banchetti chiusi prima d'ora. Poi l'autobus svoltò in una strada più stretta che non conoscevamo. Adesso i marciapiedi non erano del tutto deserti. Vedevamo capannelli di uomini che ciondolavano sugli angoli. Al nostro passaggio guardavano l'autobus con aria interrogativa. Erano calmi, guardinghi. Sembrava che aspettassero qualcosa. Grazie a Dio, dissi a me stesso, la nonna e May non sono qui. Tublu mi diede di gomito e indicò un risciò che era stato messo di traverso all'imbocco di un vicolo. Lo videro anche gli altri e si voltarono a fissarlo. Non riuscivamo a distogliere gli occhi, neppure quando era ormai lontano dietro di noi. Non c'era ragione di fissarlo. Ogni volta che uscivamo vedevamo risciò fermi agli angoli sporchi delle strade. Tuttavia non potevamo fare a meno di fissarlo. C'era qualcosa nell'angolo in cui era stato piazzato che rendeva evidente un intento che non potevamo comprendere a fondo. Era stato messo là per bloccare i musulmani o per tenere lontani gli indù. In quel preciso istante, nell'assoluta consuetudine di un risciò abbandonato su un angolo, fummo in grado di cogliere lo scompiglio del nostro universo. Poi il nostro autobus svoltò verso Park Circus e improvvisamente quelle voci si fecero tutte intorno a noi, quelle stesse agitate esplosioni di rumore, ma più forti di prima. Al di là del parabrezza vidi una folla disordinata che si accalcava nel circus. Mentre guardavo, un braccio della folla si staccò dal corpo principale e serpeggiò verso di noi. Persi l'equilibrio mentre l'autobus si arrestava di colpo con stridore di freni. Lottando con il volante, l'autista riuscì a girare il vecchio autobus traballante che sobbalzò quando due delle sue ruote salirono sul marciapiede. Poi si rimise in carreggiata, le marce ingranarono con un forte stridore metallico e il mezzo riprese lentamente ad avanzare. Gli uomini che ci inseguivano erano a pochi passi dalla parte posteriore dell'autobus. Quando le pietre cominciarono a colpire i finestrini, ci rannicchiammo sotto i sedili. Poi l'autobus acquistò velocità e li lasciammo indietro. Allora ci rialzammo e ci voltammo a guardare. Alcuni di loro ridevano con le braccia intorno alle spalle di un altro. All'angolo successivo l'autista svoltò in una strada che nessuno di noi riconosceva. Tublu, che era il più vicino, andò a dirgli che quella non era la direzione di casa sua. Non sarebbe riuscito a ritrovare la strada. Senza rallentare, l'autista sollevò un braccio e respinse Tublu al suo posto. Non osavamo guardarci. Non riuscivamo a riconoscere le strade che percorravamo a tutta velocità. Non sapevamo se stessimo andando a casa oppure no. Le strade si erano capovolte. La nostra città si era rivoltata contro di noi. Tublu si mise a piangere. Uno a uno ci raccogliemmo tutti intorno a lui. In qualunque altra circostanza avremmo riso, ma adesso lo ascoltavamo in silenzio, atterriti. Stava veramente piangendo, non per attirare l'attenzione, né perché si fosse fatto male, ne eravamo sicuri. C'era un mare di desolazione nei suoi singhiozzi. Pianse a quel modo per tutta la strada verso casa. Pianse per tutti noi. Non basterebbe dire che eravamo spaventati. Eravamo inebetiti dalla paura. Quella particolare paura ha una tessitura che non si può dimenticare né descrivere. È come la paura delle vittime di un terremoto, della gente che ha perduto la fede nella pace della terra. E tuttavia non è la stessa. è priva di analogie perché non è paragonabile alla paura della natura, che è la più universale delle paure umane, né alla paura della violenza dello Stato, che è la più comune delle moderne paure. È una paura che viene dal sapere che la normalità è del tutto contingente, che gli spazi che ci circondano, le strade che abitiamo, possono diventare di colpo e senza nessun preavviso ostili quanto un deserto in un'improvvisa inondazione. È questo che distingue le migliaia di milioni di persone che vivono nel subcontinente dal resto del mondo. Non la lingua, non il cibo, non la musica. La particolare qualità della malinconia che deriva dalla paura della guerra tra se stessi e la propria immagine nello specchio.